Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alla risiera di San Sabba a Trieste, la cerimonia per il giorno della memoria. L'olocausto non è solo un atto di rispetto verso le vittime di quel periodo, ma anche una chiamata all'azione. L'ha detto nel suo intervento il sindaco di Trieste di Piazza. Commemorato anche il questore di Fiume, Palatucci, che salvò 5.000 ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio. Egli stesso fu poi portato a Dachau, dove morì nel 1945, in corso la causa di beatificazione. Via libera dal Consiglio delle Autonomie Locali al piano della rete oncologica regionale, ma restano i malumori nell'Isontino. Mercoledì il piano verrà discusso in terza commissione consiliare. Tempo di mobilitazione a Trieste non solo per l'ultima vertenza, quella della Flex, ma per l'intero comparto industriale in profonda crisi da tempo. Carcere di Udine, il tasso di sovraffollamento supera il 200%, una situazione allarmante denunciata dal SAP e confermata dal garante dei detenuti. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Andrei Marussic e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Con la deposizione di una corona d'alloro davanti alla lapide in memoria delle vittime iniziata nel cortile del Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista in Italia, la cerimonia di commemorazione della giornata della memoria. Sentiamo. A riempire il cortile della Risiera nel giorno della memoria, accanto alle autorità e alle associazioni di deportati ed ARMA, molte scolaresche cittadine, a indicare la necessità della trasmissione della memoria, come è stato evidenziato dal sindaco di Trieste di Piazza nel suo lungo intervento. Il giorno della memoria, ha detto, è l'occasione per promuovere la consapevolezza su quanto è accaduto, ma anche per riconoscere il ruolo di chi ha combattuto il nazifascismo sacrificando la vita. Nazifascismo, ha detto, che ha trasformato l'odio in politica di Stato che giustificava la persecuzione contro milioni di ebrei, rom, sinti, omosessuali, portatori di disabilità e oppositori. Dopo l'intervento del sindaco di Piazza è intervenuto il sindaco di San Dorligo Coretti, che ha voluto sensibilizzare contro l'indifferenza verso i rigurgiti di odio e slogan nazisti e parole antisemite. Il rabbino capo Meloni, prima della preghiera, ha riflettuto sull'antisemitismo che è tornato, ha detto. Se 20 anni fa, quando è stato istituito il giorno della memoria, si pensava che l'antisemitismo fosse residuale, dopo il pogrom del 7 ottobre, ha detto, sono tornate le manifestazioni con striscioni in cui si nega il diritto dello Stato ebraico. Quale differenza c'è quindi con i nazisti? Poi ha spiegato anche che si barattano gli ostaggi ebrei come facevano i nazifascisti. Ci chiediamo, ha detto, quindi qual è il nostro futuro in Europa, invitando così a una profonda riflessione. Risiera, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una corona d'alloro della polizia è stata deposta stamani ai piedi della lapide che ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci all'interno del carcere del Coroneo a Trieste. La cerimonia è stata promossa in occasione della giornata della memoria della Questura di Trieste e dell'Associazione Nazionale Giovanni Palatucci Onlus. Il reggente della Questura di Fiume salvò dal 1939 fino al suo arresto nel 1944 circa 5.000 ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti. Palatucci è stato ricordato durante la cerimonia, fu ingiustamente ristretto nel carcere di Trieste dal 3 settembre al 18 ottobre 1944. Successivamente fu deportato a Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945. Il lavoro per la causa di beatificazione procede, finalmente sta scorrendo, la causa sarà per martirio. Lo ha annunciato Sergio Schierinzi dell'Associazione Nazionale Palatucci. È stato un uomo giusto, ha affermato il questore di Trieste, Pietro Stuni, a margine della cerimonia, che ha servito la povera povera gente che ha salvato migliaia di ebrei destinati alla morte. Si è sacrificato in prima persona. Rispetto a quello che ha fatto lui, dobbiamo sentirci piccoli, è stato un grande. Al termine dell'incontro, una marcia silenziosa promossa dall'Associazione Nazionale Ex Deportati si è diretta verso la stazione ferroviaria. In apertura del corteo, lo striscione del Comitato 25 Aprile, quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere, in italiano e in sloveno. All'arrivo, il Comune di Trieste ha deposto una corona d'alloro presso la lapide che ricorda la partenza dei convogli che dal settembre 1943 al febbraio 1945 trasportarono i deportati per ragioni razziali, politiche e di sfruttamento economico. Un brutto clima sta avvolgendo questa giornata della memoria, si registra infatti un aumento dei fenomeni d'odio contro la comunità ebraica riemersi dopo il 7 ottobre e la guerra in Medio Oriente. Riesplode l'antisemitismo che, dice Liliana Segre, oggi manifesto, ma c'è sempre stato, ne abbiamo parlato stamattina nella nostra trasmissione del mattino VGR. L'onere della memoria. A 80 anni dalla liberazione del lager di Auschwitz, non dimenticare per non ripetere diventa imperativo tanto più importante quanto più stanca rischia di diventare la commemorazione tra un passato che non passa e un presente segnato dalla guerra in Medio Oriente che ne inquina il senso più profondo, spiega Andrea Zannini, docente di storia contemporanea all'Università di Udine. È evidente che dopo la reazione di Israele e dopo la guerra dichiarata ad Hamas dal governo israeliano con differenziale di forze spaventose che sta provocando decine di migliaia di morti, si è tornato a parlare di antisemitismo anche per le manifestazioni in tutto il mondo che non distinguono tra Stato di Israele e ebrei. C'è in molti casi semplicemente un rigurgito di qualcosa che è evidentemente sul fondo della nostra società. Il rischio è lo svuotamento di questa ricorrenza tra istituzionalizzazione e scomparsa dei testimoni diretti, dice Alessandro Salunicchio, presidente della comunità ebraica di Trieste. Purtroppo è vero, la ripetitività di questo anniversario sta portando ad un raffreddamento di quelle che sono anche le conoscenze e anche l'interesse della parte dell'opinione pubblica. La scomparsa degli ultimi testimoni che potessero in qualche maniera rappresentare l'esperienza vissuta personalmente rende ancora più difficile trasmettere un messaggio forte, un messaggio che sia convincente e che purtroppo notiamo negli ultimi anni non riesce a essere sufficientemente esauriente, in particolare per le giovani generazioni. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 11 gradi e 5 decimi. A Gorizia 10 e 5. A Udine 9 e 5. A Pordenone 8 gradi e 5 decimi. A Tarvisio 7. A Tolmezzo 6. A Piancavallo e Forni di Sopra 3 gradi e 5 decimi. A Sappada 1 grado. Sul Monte Lussari 0 gradi. Sul Monte Zoncolan meno 1 grado. A Lignano e a Grado 10 e 5. Le previsioni per oggi, cielo coperto, nel pomeriggio piogge diffuse deboli o moderate che si intensificheranno in serata, specie sulle prealpi e sull'alta pianura. Sulla costa inizierà a soffiare scirocco e la quota neve si alzerà dai 1500 ai 1200 metri verso il Cadore. Nella notte scirocco sostenuto sulla costa e precipitazioni intense sui monti, specie sulle prealpi. A Udine questa mattina si è riunito il Consiglio delle Autonomie Locali. I comuni sono chiamati a votare il piano oncologico regionale. Contrari Gorizia e Mossa, astenuti San Canzian di Sonzo, La Tisana e Udine. Ma il parere è stato favorevole e il piano proseguirà il suo iter in Consiglio regionale. Quasi tutti d'accordo nelle premesse, la necessità di riformare le cure oncologiche, ma non nelle conseguenze. Parere positivo del Consiglio delle Autonomie Locali al piano della rete oncologica regionale, presentato dall'assessore Riccardi a dicembre. Ma politicamente il dato che pesa è il persistere dei malumori nell'Isontino. 17 voti favorevoli, contrari i comuni di Gorizia e di Mossa. Astenuto San Canzian di Sonzo, assieme a Udine e La Tisana. Gorizia chiede per esempio la tutela di urologia e chirurgia generale, La Tisana il mantenimento delle prestazioni relative al tumore del retto. Riccardo Riccardi, assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia. Sono stato molto chiaro che noi dobbiamo guardare agli esiti, dobbiamo guardare al fatto che questa è una delle tre regioni italiane che non ha una rete oncologica e non possiamo continuare a pensare di discutere della sanità di una parte o dell'altra della regione o di un ospedale o di un altro. Le attività devono essere concentrate e questo lavoro deve essere fatto su basi scientifiche. Vedo molti specialisti in oncologia laureati alle serali e credo che questo non faccia bene. Dopo quasi 2 mesi di confronto, anche in seno alla maggioranza, il punto di sintesi è stata la rimozione della tabella finale con le indicazioni per il riorientamento dell'attività chirurgica oncologica. L'eventuale revisione spetterà al gruppo di lavoro tecnico incaricato dal coordinamento oncologico, che includerà anche i chirurghi. Claudio Colussi, sindaco di Casarsa della Delizia. Non possiamo attendere oltre ancora altri 20 anni per dotarsi di questo strumento che è essenziale per la nostra sanità. Alessandro Venanzi, vice sindaco di Udine. Oggi è la mano tesa indirizza a questo, una stensione che punta a una maggiore collaborazione ma anche di condivisione a monte di progettualità. Mercoledì il piano passa in terza commissione consiliare. Se dovesse incassare parere positivo, la giunta regionale potrebbe dare approvazione finale alla nuova rete oncologica già nel corso della settimana. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Crisi industriale a Trieste, un processo innescato da tempo e che sembra inarrestabile. L'ultima vertenza riguarda la Flex con la conseguente mobilitazione in difesa di 350 posti di lavoro. Oggi lo sciopero proclamato dai sindacati che chiedono una mobilitazione. Non è più tempo delle divisioni, bisogna far sentire uniti la voce dei lavoratori contro la crisi della produzione industriale a Trieste. Lo chiedono i rappresentanti sindacali riuniti di fronte al cancello della Flex, dove i posti in bilico, compreso l'indotto, sono 350. A convocare lo sciopero e il presidio FIOM, FILM, WILM e UGL in attesa del tavolo ministeriale di domani. Antonio Rodà, segretario WILM Friuli Venezia Giulia. C'è uno smantellamento progressivo del nostro tessuto industriale. Flex, siamo arrivati al capolinea di un'avventura di questa multinazionale, rischio che avevamo paventato tante volte, quindi domani rischiamo nell'incontro del Ministero di vedere l'epilogo di questa avventura di questa multinazionale. I sindacati non accettano che il fondo tedesco Faircap preveda di acquistare Flex programmando fin da subito gli esuberi di personale. Marco Relli, FIOM CGL Trieste. Assolutamente bisogna trovare il sistema per invertire questa tendenza, perché altrimenti questo fondo, il discorso è molto semplice, dismissione, non c'è altra prospettiva. Le sigle si preparano a grandi manifestazioni di piazza in città. Alessandro Gavagnin, FIM CISL. È ora di mettere a fattor comune tutte le varie crisi che si sono sviluppate in questi mesi sul territorio. Il turismo in forte crescita non basterà ad assorbire la crisi industriale. Vincenzo Esposito, UGL Metalmeccanici Trieste. Abbiamo i più grandi ingegneri informatici noi qui a Trieste. Abbiamo le teste che ci prendono in tutta Europa e noi dobbiamo mandarle a fare i cuochi. Ma di cosa stiamo parlando? Al presidio anche i lavoratori della U-Blox di Sgonico che rischiano il licenziamento. Massimiliano Generutti, coordinatore nazionale lavoro privato USB. U-Blox sono 200 lavoratori, di cui 150 ingegneri, che fanno ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazioni. La loro produzione è fatta da Flex Austria, quindi c'è una prima contraddizione. Potremmo unire in sinergia le due realtà. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca giudiziaria: di fronte al GIP di Udine, l'udienza per l'incidente mortale dello scorso febbraio a Gemona, dove perse la vita il giovane Matteo Pittana. Ci sarà un'ulteriore udienza preliminare davanti alla GIP di Udine Giulia Pussini per l'incidente mortale del giovane gemonese Matteo Pittana del 19 febbraio dello scorso anno nel canale Ledra a Gemona. Si andrà al prossimo 19 maggio, in quanto oggi sono state ammesse le costituzioni delle parti civili del padre e della madre della vittima, anche in rappresentanza del fratello minore con l'avvocato Spitaleri e dell'associazione familiari e vittime della strada di Milano con l'avvocato Cavallini. Su richiesta del pubblico ministero Luca Olivotto nei confronti di Ludovico Piva, il ragazzo che era alla guida dell'auto finita nel canale, è stata contestata e aggiunta al reato di omicidio stradale anche l'aggravante della fuga per essersi allontanato dal luogo dell'incidente insieme all'altro giovane Warg Antonio De Prato di Trasaghis, abbandonando dopo lo schianto sull'argine il corpo ormai esanime del giovane Matteo senza segnalarlo ai carabinieri. La difesa di Ludovico Piva è rappresentata dall'avvocato l'avvocato Nais, ha chiesto i termini a difesa in vista della nuova udienza preliminare. Rinvio necessario anche per il fatto che è stata chiesta ed autorizzata la citazione in giudizio per responsabilità civile della madre del Piva, quale comproprietaria dell'auto priva di assicurazione. Ad attendere gli esiti dell'udienza odierna, fuori dal tribunale di Largo Ospedale Vecchio, un gruppo di parenti e amici di Matteo per manifestare la vicinanza alla famiglia, il ricordo del giovane amico e la richiesta di verità e giustizia rispetto a quanto accaduto. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Trieste sono stati impegnati lo scorso sabato sera in controlli per contrastare l'abuso di sostanze alla guida dei veicoli. 212 conducenti sottoposti ai controlli etilometrici, sono state ritirate 6 patenti e decurtati 60 punti, registrati parecchi comportamenti definiti incoscienti e pericolosi. Carcere di Udine, il tasso di sovraffollamento supera il 200%, una situazione allarmante denunciata dal SAP e confermata dal garante dei detenuti. 183 i detenuti presenti nel carcere di Udine, il doppio della capienza. Per lavori ridotta a 89 posti letto, il tasso di sovraffollamento torna oltre il 200%. Occupate tutte le camere detentive, anche quella della sezione isolamento. Rimane ancora un solo posto letto libero nella struttura, a un passo dal blocco delle assegnazioni di nuovi detenuti e dalla richiesta di sfollamento, fa sapere il delegato nazionale per il Friuli Venezia Giulia del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Massimo Russo nel dare notizia dei numeri aggiornati ad oggi. 3 mesi fa la situazione era la stessa, ma in più c'era una cella da 4 posti, oggi chiusa perché in corso di ristrutturazione, rileva Russo, che rammenta anche che a gestire un carcere col doppio dei detenuti previsti ci sono solo una 70 di agenti di polizia penitenziaria effettivi, ne servirebbero una 15 in più perché i 7 che arriveranno il 1 febbraio, 5 uomini e 2 donne, a malapena ripianeranno i vuoti lasciati dagli ultimi 2 trasferimenti e quelli che si creeranno con i 7 prossimi pensionamenti previsti da qui a dicembre, spiega ancora il referente del SAP. È un problema che si perpetua, passato da eccezionalità ad essere la regola, afferma il garante dei diritti dei detenuti di Udine, Andrea Sandra, prevedendo che con gli ultimi provvedimenti normativi i numeri non possano che aumentare ancora. Il garante rilancia la richiesta alla politica di interventi per svuotare il carcere con gli strumenti previsti per legge e, pur avendo riscontrato sino ad ora un grande senso di responsabilità tra detenuti e operatori, segnala che la tensione è in aumento e che il carcere è ormai da troppo tempo una polveriera. Lo stesso afferma anche Russo del SAP, ricordando che le aggressioni agli agenti sono all'ordine del giorno. L'ultima una settimana fa è costata a 2 agenti feriti 10 e 2 giorni di prognosi e al detenuto che li ha aggrediti il trasferimento in un altro carcere. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. L'impatto sociale dell'intelligenza artificiale in una mostra interattiva al CRO di Aviano, dove è presente una biblioteca scientifica per i pazienti. È visitabile fino al 14 febbraio nell'atrio dell'ingresso principale del CRO di Aviano una nuova mostra itinerante dedicata all'intelligenza artificiale. Anche attraverso esperienze giocose e interattive, l'esposizione affronta il tema dell'impatto sociale di questa tecnologia ed è corredata da una guida che fornisce consigli pratici per rimanere consapevoli e informati. L'iniziativa, prodotta dal Politecnico di Milano in collaborazione con la Federazione Internazionale delle Associazioni Bibliotecarie, fa tappa al centro di riferimento oncologico grazie alla biblioteca scientifica e per i pazienti dell'Istituto, una delle 50 realtà bibliotecarie selezionate in Europa per ospitare il progetto. Il coordinatore della biblioteca, Mauro Mazzucut. L'intelligenza artificiale, come tutti gli strumenti tecnologici, può essere un'opportunità ma anche un rischio. Ovviamente qui si cerca di capire quali sono i meccanismi più problematici nell'utilizzo delle informazioni, in modo da avere tutti gli strumenti per poi interpretare se l'informazione ricevuta da uno strumento di intelligenza artificiale è efficace, è di qualità e può servire alla persona che la utilizza. La biblioteca scientifica e per i pazienti del CRO è stata la prima biblioteca pazienti in Italia. Chiara Cipolat-Miss della biblioteca. Come biblioteca scientifica si occupa di soddisfare le richieste informative dei nostri operatori sanitari, però in quanto biblioteca pazienti ed è la prima biblioteca pazienti nata in Italia nel 1998, si occupa di soddisfare anche le richieste informative dei nostri utenti, pazienti e familiari con ricerche mirate su base dei loro bisogni e anche producendo materiale informativo ad hoc. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport calcio con la sconfitta dell'Udinese in casa contro la Roma, decisivo il VAR, i friulani ancora una volta hanno dovuto accettare le decisioni arrivate dall'orecchio dell'arbitro. La squadra di Runjajc ha pagato anche l'atteggiamento sbagliato della ripresa dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Lucca. In gol nel secondo tempo dal dischetto Pellegrini e Dobic per sancire il definitivo 1-2. Ma sentiamo il commento dell'allenatore dell'Udinese Runjajc e del giovane talento Pafundi entrato nella ripresa. Abbiamo dovuto reagire prima di tutto all'infortunio di Touré, che non ci ha fatto bene, questo da dire. Poi abbiamo fatto determinati tipi di cambi nella seconda frazione di gioco, ma la sconfitta di oggi non dipende da giocatori singoli, ma da errori che abbiamo commesso. Io avrei voluto che nel primo tempo l'Udinese avesse messo ancora di più sotto pressione la Roma e magari avremmo potuto appunto indirizzare meglio la partita. Purtroppo però non ci siamo riusciti. Il nostro obiettivo quale deve essere? È il fatto che qui il nostro stadio sia un fortino. Noi dobbiamo essere una squadra molto difficile da affrontare contro qualsiasi tipo di avversario qui in casa, in particolar modo. Perciò io ho detto che abbiamo giocato in maniera solida, in preparazione di gioco, ma non in una maniera ottimale, appunto per la situazione in cui eravamo noi e la Roma. Perciò, per quanto ci riguarda, dobbiamo essere coscienti di questo, dobbiamo migliorarci, dobbiamo affilare le nostre armi, dobbiamo appunto dare ancora di più sul campo da gioco, in quanto dobbiamo fare anche un passo in avanti per quanto riguarda proprio la mentalità e anche proprio per l'approccio delle partite. Un pareggio amaro per la Triestina ieri sera al Rocco contro l'Ecco, finisce 1-1, gli alabardati rimangono in piena zona play-out, la salvezza è lontana 7 punti. È sapore della beffa il pareggio della Triestina in casa contro il Lecco, 1-1, in una sfida a salvezza che gli alabardati hanno a lungo dominato. La sensazione è di 2 punti persi ed è un peccato perché in classifica il margine tra le due squadre è di 6. La prima palla gol è già al quarto minuto, Correia si accentra da sinistra e con il destro cerca subito la porta, ma il tiro finisce sulla traversa. Sulla ribattuta Olivieri trova Furlan in tuffo che manda fuori. Passa un quarto d'ora e Correia fa la magia, trova con un tacco d'Urso, ma il trequartista manda alto, forse con il tocco del portiere. La Triestina è in forma e si vede. Una dozzina di minuti dopo, D'Urso restituisce il favore a Correia, che buca la difesa e infila Furlan con un raso terra al primo palo. È immeritato 1-0. Il Lecco è smarrito, la Triestina va avanti con Vertainen, che dalla destra lancia Olivieri in mezzo all'area, ma la spaccata non raggiunge il pallone. Nella ripresa il Lecco si risveglia, ma è la Triestina che al 77esimo può chiudere. Olivieri da sinistra serve il fiodilino in area, ma il centrocampista trova l'esterno della rete. Per il Lecco la prima vera chance arriva 5 minuti dalla fine. Il cross in area trova Galeandro, ma Rossi è bravo ad alzare in corner. I lombardi restano avanti e 4 minuti dopo Ferrini raccoglie una palla respinta e da 18 metri si inventa un gol impensabile, 1-1, un pareggio che per il Lecco sa di vittoria. Finisce così, per la Triestina che meritava di vincere resta solo un punto e il rimpianto di non aver saputo chiudere prima. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il basket di Serie A1 sconfitta ieri per 87-74 a Milano per la Pallacanestro Trieste che ha mollato la presa a inizio quarto periodo, anche per merito di un'impeccabile difesa di Milano che si rifà dopo una pesantissima sconfitta in Eurolega. I ragazzi di coach Christian hanno fatto ben sperare dopo un inizio fatto di un botta e risposta accelerato senza un break importante da parte delle due compagini, dove in casa Olimpia a splendere è stato Brooks. Brown invece ci ha messo fisicità sotto canestro e il tiro dalla distanza. Il momento migliore di Trieste arriva a 3 minuti dalla pausa, il canestro di Ross vale un più 10 subito annullato prima dell'intervallo. Assente Utov, febbricitante e lasciato a casa, a sostituirlo in partenza Brooks, prestazione positiva a tutto campo per Valentine, Brown ne mette 17, top scorer con Shields in casa Milano. Dopo 17 giornate la classifica è guidata dal trio Trapani-Brescia-Trento e vede Trieste al 7° posto a quota 20 in coabitazione con Reggiana ed Ertona. Quest'ultima arriva sabato prossimo al Pala Trieste. E con il basket è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Walter Vidonis e Tommaso Vinoni. Da parte di Andrea Marussi c'è Elisabetta Zaccolo che vi parla. Grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.